vedremo anche negli incontri delle prossime settimane, le nuove ondate di arrivi, le politiche di accoglienza. E per questo oggi l'incontro è condotto da Enrico Pugliese, che è qui, e che è un sociologo ed è uno dei massimi studiosi in Italia dell'emigrazione e immigrazione. Poi abbiamo a questo tavolo Grazia Naletto, che è di Lunaria, dell'organizzazione Lunaria, e in particolare Cronache di Ordinario Razzismo, e fa parte poi anche del direttivo di Sbilanciamoci. E infine Antonello Cervo, che è un costituzionalista e nel direttivo dell'ASGE, che è l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione, ed è anche un collaboratore della Fondazione Basso, quindi diciamo che è in casa. Do la parola a Enrico e buon pomeriggio. Io mi viene sempre da ridere quando dico questo, Enrico Pugliese è uno dei massimi studiosi dell'emigrazione, e alla fine a furia di sentirlo ci sto cominciando a credere pure io, comunque mi viene da ridere lo stesso. Allora, in effetti è vero, io studio da oltre 50 anni le migrazioni, e questo termine va ricordato, anche perché quando si usa il termine migranti si hanno diversi concetti in testa, diversi ovviamente fra di loro, lo dirò dopo. Alcuni si riferiscono al termine migrante con riferimento a una fase specifica del loro percorso, cioè quando vengono da una parte o dall'altra. Altri invece vedono il soggetto migrante come una persona che si porta dietro la partenza anche quando sta in un posto da molto tempo. E poi ci sono per esempio anche teorie all'interno di quel filone di studi sostantivo che sono gli studi migratori, come Alain Tarieux, che è uno che ha scritto un libro che si chiama Le formiche d'Europa, che vedono negli attuali movimenti migratori un caos in continuo movimento, eccetera. No, per me, io uso il termine migranti per riferire al fatto che parlo di emigrazione e di immigrazione. Studio le migrazioni, cioè la immigrazione in Italia e l'emigrazione all'Italia, da più di mezzo secolo, e forse può essere un'espressione di cattivo gusto, ne ho visto di tutti i colori. E studiare le migrazioni è come tentare di colpire un bersaglio continuamente mobile. Appena uno si è fatto un'idea precisa su quello che sta succedendo nel campo migratorio in una determinata epoca, immediatamente un anno di tempo è già cambiato completamente tutto. Non sono più gli stessi soggetti, non hanno più le stesse aspirazioni, non vengono più dagli stessi posti. Certo, c'è una cosa che possiamo, per analogia con l'eterno non femminile, possiamo dire l'eterno migratorio, ci sono delle cose che caratterizzano i migranti in tutte le epoche, però se uno studia le migrazioni in un determinato paese, allora non va che stupirsi ogni giorno. Io ho una certa età, dicevo che studio l'emigrazione da quando non ce l'avevo, quando ero relativamente giovane, e quando ero già uno studioso maturo di emigrazione, se uno mi avesse detto l'Italia diventerà un grande paese di immigrazione, e il principale gruppo di immigrati saranno i rumeni. E tu chi sei proprio scemo? Cioè, l'Italia paese di immigrazione, ma come gli viene? Sì, vengono, ci sono gli americani a Trastevere, tutto, un paese di immigrazione l'Italia. Poi invece l'Italia è diventato un grande paese di immigrazione, e tra l'altro in quel periodo, quando ci si cominciò a rendere conto dell'esistenza di questo fenomeno come fenomeno strutturale, si dimenticò che c'era anche l'emigrazione italiana. E quante volte che mi trovavo a sentire qualche collega che congiunava sull'emigrazione, e generalmente l'espressione con la quale cominciava la predica era l'Italia, virgola, che era un grande paese di emigrazione, è diventato un paese di immigrazione. Ed io dalla sala, oppure se mi se ero lettore dell'articolo con la penna, dicevo: guarda, hai saltato un avverbio, l'avverbio è anche. Allora, 20 anni fa bisognava dire l'Italia che è, 30 anni fa bisognava dire l'Italia che era un grande paese di emigrazione è diventato anche un paese di immigrazione. E ora che ci siamo abituati a dire l'Italia è un grande paese di immigrazione, è ridiventato un paese di emigrazione. E io, il mio ultimo libro si chiama Quelli che se ne vanno, la nuova immigrazione italiana. Non mi sarebbe mai venuto in mente questo titolo. Il mulino ha deciso, come stanno in difficoltà di fare dei titoli fancy, allora ci hanno scritto Quelli che se ne vanno, ma poi ci siamo accordati sul sottotitolo. Ebbene, l'Italia è diventata un grande paese di emigrazione. L'Italia è uno dei paesi che tra i principali 10 paesi di emigrazione al mondo, vi rendete conto questo paese di immigrazione che cos'è? Perché l'Italia è un crocevia migratorio, lo è sempre stato. La gente veniva dall'Italia, partiva dall'Italia nel Medioevo, non parliamo della romanità e della cittadinanza romana, ma pure se ci limitiamo agli ultimi secoli c'è sempre stata questa, dei momenti in cui c'era più gente che veniva, dei momenti in cui c'era più gente che se ne andava. E poi c'è stato un momento molto interessante, che è l'emigrazione italiana prima dell'Italia. Cioè, per venire da Subiaco, non proprio da Subiaco, Subiaco era già stato della Chiesa, ma 20 chilometri più in là ci voleva il passaporto, ci volevano i documenti di i lasciapassare dell'epoca. Quindi, e tra l'altro è stato molto importante come le istituzioni, come l'emigrazione da questo punto di vista è stata importante per la formazione dell'identità italiana. Lo è stato nel piccolo per il fatto che quando venivano gli abruzzesi a Roma, poi dopo dovevano avere a che fare, dovevano riportare i soldi indietro, si dovevano sposare, c'era un problema di eredità e quindi c'è stata necessità di adeguare il notariato del Regno di Napoli col notariato dello Stato Pontificio, cioè le istituzioni crescevano anche perché c'erano questi scambi. Poi la grande identità è una parola pericolosa, stiamoci accorti, insomma, uno ne sente identità e pensa subito a Salvini, no, identità è anche il modo in cui il senso di sé. Gli italiani quando emigrarono negli Stati Uniti, ma soprattutto quando emigrarono in Argentina, perché l'emigrazione verso il Sud America è cominciata prima e ha riguardato altre regioni, ecco, il modello Bergoglio, nordici che andavano in Sud America, poi dopo quando c'è stata la definitiva grande esplosione della immigrazione italiana transoceanica sono stati meridionali che sono andati in America del Nord, insomma tutti quanti a New York sanno che c'è questa grande canzone italiana O sole mio, chi lo canta? I napoletani. E in effetti O sole mio, come noto, è stato scritto a Odessa. Sapete dove è Odessa, insomma? Da due personaggi di Sorrento e poi è diventato l'inno non solo dell'orchestra italiana di Renzo Arber, ma anche di tutta la retorica italianofila americana. Allora, l'emigrazione ha avuto una grande funzione contemporaneamente nel fondere identità e creare identità nuove. Emigrazione e sovranismo non possono convivere, ecco, proprio sono sostanzialmente antitetiche. Prima che qualcuno inventasse il prima gli italiani, già c'erano state almeno 40 anni di prima gli svizzeri, prima che si dipingessero i neri come orangutang, quando erano ministri, raramente i ministri sono neri, ma qualche volta capita, insomma, prima ancora che si cominciasse a dire gli italiani prima, c'era già questa tradizione, prima di presentare gli immigrati come bestie, in realtà c'erano pensato gli svizzeri nel Ticino, ora, 3 anni fa, a dipingere gli italiani come topi. Comunque, per farla breve, Così è fatto il mondo. L'Italia che cosa ha visto come migrazione? Che vuol dire, Marina parla della struttura sociale dell'immigrazione italiana. Bene, allora perché c'è l'immigrazione in un paese che ha un alto tasso di disoccupazione? L'immigrazione in Italia è cominciata alla grande negli anni 80, è esplosa negli anni 90, il trend esplosivo è proseguito negli anni 2000 e negli anni della crisi si è ridotta significativamente l'immigrazione da lavoro, ma non si è ridotta l'immigrazione da ricongiungimento familiare e soprattutto l'immigrazione, quella dei barconi, quella l'immigrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Quindi noi abbiamo avuto continui cambiamenti, però la prima domanda è: come mai c'è immigrazione contemporaneamente alla disoccupazione? Negli anni Ottanta c'era, voi avete presente la Lega? La Lega ora è un normale partito fascista, xenofobo a livello nazionale. 30 anni fa non ce l'avevano con gli stranieri, c'erano anche con gli stranieri, però l'oggetto di odio e disprezzo erano i meridionali. Citazione familiare personale. Mia sorella vantava una 500 targata Cosenza, faceva parte dell'immigrazione piccolo borghese al nord dei meridionali, i figli non volevano essere accompagnati a scuola dalla mamma con la scicchissima 500, d'epoca, un'epoca non tanto lontana, 500 degli anni 50-60, insomma, perché era targata Cosenza, ecco. Ora, con l'evoluzione della Lega, in realtà si è passati da un orientamento identitario localistico in senso stretto a un punto di vista sovranista, xenofobico in generale, gli italiani prima. Allora, dicevo che l'abbiamo visto di tanti colori e i primi colori erano molto belli. Ci fu la prima legge sull'immigrazione, sembrerà strano, Grazia comincerà a ricordarsele queste cose, è dell'87, 486-87, ed era una legge basata su un equivoco di fondo, però è una legge avanzatissima, è la legge i cui principi sono ancora contenuti nel testo unico dell'emigrazione, quello cioè c'è la negazione del prima agli italiani. Ad ogni buon conto, è come se la legge va sotto il nome di Foschi, Foschi era un bravo democristiano di sinistra, ministro del lavoro, qualcuno l'aveva iscritto alla P2, povero figlio, insomma, è l'unico, diciamo, neo della sua esperienza politica, però per lui era una bravissima persona. Questa legge, la legge Foschi, stabilisce il principio della parità dei diritti e dei doveri dei lavoratori italiani e stranieri. Lo stesso principio è contenuto nella... Voglio dire questo perché quello che sembra un'ovvietà, gli italiani prima, e poi dopo in realtà bisogna fare una battaglia per dire no, gli italiani prima non è giusto perché. No, non c'era bisogno di dire non è giusto perché, era giusto, punto e basta. Cioè, era ingiusto, erano gli italiani e gli altri uguali perché quello era ciò che si respirava in quegli anni progressisti nel nostro paese. Ma la situazione non era facile. Quegli anni, dagli studiosi del mercato del lavoro, sono definiti come gli anni, si usa il termine inglese generalmente, che è la jobless growth, vuol dire lo sviluppo senza crescita occupazionale. Craxi diceva, voi ricordate Craxi? Amamet, però non era un emigrante, insomma. Allora, Craxi diceva la nave va e l'economia tirava, ma sempre con meno, quello che era già cominciato negli anni 70, durante gli anni della stagflazione, si diceva, in cui praticamente le cose andavano male nell'economia perché c'era contemporaneamente stagnazione e inflazione, superata questa fase ci si è trovati in un momento di grande crisi occupazionale. In quel momento di grande crisi occupazionale esplode l'immigrazione in Italia. Perché? Perché in quegli anni si determinano due processi nel mercato del lavoro e nell'economia, che sono i seguenti. Il primo si chiama internazionalizzazione del mercato del lavoro. Praticamente la gente si comincia a muovere, paesi e popoli che non avevano nella loro tradizione grandi esperienze di emigrazione cominciano a muoversi. Tutt'al più i popoli coloniali producevano un po' di emigranti verso quella che ipocritamente si chiamava madre patria. Quella è la madre patria dei coloni, non è la madre patria dei sudditi, insomma, no? E quindi c'erano gli indiani in India, c'erano un po' di magrebini in Francia, anche un po' di gente dalle Indie orientali, eccetera, ma poca roba. La grande emigrazione, poi il mondo è il mondo in realtà. Quando ci fu la grande emigrazione che ha sconvolto il mondo, in realtà c'era un'emigrazione di pari intensità, di cui non si sapeva niente per l'etnocentrismo tipico degli studiosi, che nel sud-est asiatico c'erano movimenti di popolazione della stessa portata di quelli che c'erano tra l'Italia e le Americhe, tra l'Europa, scusate, e le Americhe. Quindi c'è stata quella che da noi si chiama la grande emigrazione, non so come si chiamasse in Germania, però finì alla fine dell'Ottocento, non so come si chiamasse in Irlanda, e già stava riducendosi perché erano già arrivati tutti. Quella che era fatta dagli ebrei dell'impero zarista e dell'impero asburgico, che, come dire, quelli dell'impero asburgico tendevano condizioni di vita migliori, così come gli italiani, quelli che stavano sotto lo zar scappavano pure. Questa grande fase migratoria in realtà è stato un primo grande momento di internazionalizzazione, però era una fase in cui si andava in paesi in crescita, diversamente, si creavano gli Stati Uniti, cioè si creava soprattutto anche il Sud America. Guardate che l'emigrazione italiana a Sud America è diversa da quella. In Sud America gli italiani sono entrati a far parte della classe dirigente subito perché mancava una classe dirigente locale, cioè sono modelli migratori diversi. Comunque c'è stata prima questa fase di internazionalizzazione, però l'emigrazione era all'epoca una esperienza molto molto, scusate, negli anni Ottanta l'internazionalizzazione ormai è un dato scontato, non partono più solo gli italiani, gli spagnoli, eccetera eccetera. Come scritto Russell King, direttore ex, in pensione pure lui, del Center for Migration Studies dell'Università di Brighton in Inghilterra, che è uno dei più prestigiosi d'Europa, in realtà una volta è geografo, una volta il geografo faceva una mappa, cioè si parte da qui, si arriva da lì. Ora se uno dovesse, scriveva negli anni Ottanta, rappresentare graficamente i movimenti migratori, deve immaginarsi un piatto di spaghetti. Cioè tutto si intreccia, tutto gira, eccetera. E in realtà la caratteristica dell'Italia, dell'immigrazione in Italia, è che questi venivano da qualunque parte del mondo, perché successero due fatti. Come dicevo prima, molti paesi che non avevano esperienza di emigrazione rientrano sulla scena mondiale come paesi di emigrazione, anni Ottanta. Molti paesi che avevano solo esperienza di immigrazione nei secoli recenti, di emigrazione come l'Italia, diventano paesi di immigrazione. La novità a livello mondiale degli anni Ottanta è che quella parte d'Europa che era stata paese di emigrazione, diventa paese di immigrazione. E l'Italia viene coinvolta, Italia crocevia migratorio naturale, dove l'emigrazione esisteva interna prima ancora che ci fosse l'Italia, trova in questo momento una grande esplosione del processo migratorio. Dicevo, si va da qualunque parte verso qualunque altra parte, però ci sono dei canali prevalenti. E allora, però questi canali cambiano completamente. La storia d'Italia dell'immigrazione italiana è una storia di canali che... Mi dispiace che ci siano pochi ragazzi che hanno assistito alle precedenti lezioni, dove si fa vedere le rotte. Ecco, le rotte che hanno visto loro, così ben raccontate con riferimento a cosa succedeva nei paesi di partenza, perché e come avviene il movimento migratorio, chi lo gestisce, chi lo frena, chi lo attiva, eccetera, perché secondo quelle rotte solo 10 anni prima, solo agli inizi degli anni 2000, ecco, cioè non 40 anni fa, agli inizi degli anni 2000, era una piccola pagina del libro delle migrazioni. Chi arriva in Italia per prima? In Italia per prima, la prima cosa si comincia a credere, gli studiosi, come gli studiosi internazionali, la prima cosa che dicono è il Mediterraneo. E non è il Mediterraneo perché le cameriere sudamericane non venivano dal Mediterraneo. Quindi, diciamo, già una ragazza che lavorava per la FLAI, il sindacato dell'agricoltura, il sindacato, fece un censimento alla questura di Caserta dei permessi di soggiorno e scoprì che c'erano 27 nazionalità a Caserta, di cui alcune più importanti, altre di meno, però questi 27, almeno 15 nazionalità se la contendevano, insomma. Quando gli italiani andavano in Germania, c'erano gli italiani, gli spagnoli, i greci, i portoghesi, e poi esplode l'emigrazione turca, che prima è la seconda dopo gli italiani e poi diventa la prima e la più importante in assoluto. 5-6 nazionalità avevano fatto l'insieme dell'emigrazione, sì, poi c'era qualcosa arrivava da lontano, ma normalmente poche erano le altre, si contavano, invece già si copre tutto un arco, perché c'è l'internazionalizzazione del mercato del lavoro, ci sono gli agenti, le agenzie di connessioni, è un'agenzia di connessione pulita, diciamo così, che forniva gratis le informazioni, era la Chiesa. Se si studia l'immigrazione capoverdiana si sa benissimo, la Chiesa di San Nicolao era uno dei punti dai quali si partiva, e c'erano sicuramente parrocchie romane che davano alle ragazze che arrivavano indicazioni su dove si poteva trovare lavoro, chi, come, quando, eccetera. Allora c'è l'emigrazione delle domestiche. Il giovedì pomeriggio si colora, e lì è interessante perché ogni paese tutte le migrazioni sono uguali e tutte diverse. Allora, presidente del Censis, De Rita, persona peraltro estremamente intelligente, brava, colta e brillante, alla conferenza nazionale dell'emigrazione, questa è bellissima, dell'immigrazione, che si fece nel posto più brutto di Roma, qual è secondo voi? L'hotel Ergife. All'hotel Ergife, siccome l'immigrazione in buona parte era islamica, diedero come pasto matriciana. Quindi, come dire, questa era la competenza istituzionale sui fenomeni migratori nel nostro paese all'epoca. E De Rita, uno studioso di vaglia, spiegò che gli immigrati avevano un titolo di istruzione basso, perché noi quando emigravamo avevamo un titolo di istruzione basso, molto più alto di come si ritiene, tra l'altro, però comunque basso, erano braccianti, manovali, eccetera, poi c'era pure qualche diplomato, però normalmente, insomma, l'istruzione era bassa. Allora, se tanto mi dà tanto, se quando eravamo noi c'avevamo un titolo di istruzione basso, questi che vengono, sti baluba che vengono, avranno un titolo sicuramente molto basso. E invece c'era la grande immigrazione filippina, in cui il titolo di studio, Marina studiava l'immigrazione all'epoca, le sa benissimo queste cose, il titolo di studio era molto elevato. Mi ricordo che c'era un mio amico che scimmiottava due signore, diceva: ma la mia è laureata in filosofia, figurati, la mia è chimica industriale, puoi mettere. Quindi, perché queste ragazze venivano in Italia, quando tu ci parlavi dici: ma che cos'è l'Italia? Per me l'Italia è un bouncing board, un trampolino. È un trampolino che non funzionò, perché arrivavano in Italia con l'idea di finire in Inghilterra e possibilmente negli Stati Uniti. All'epoca in Italia era facile entrare, non si poteva andare. Però, diciamo, l'emigrazione all'epoca potevi determinarla. si studiavano quali erano i modelli, si creava un'idea di immigrato e quell'idea era sbagliata, perché effettivamente contemporaneamente c'erano tanti mestieri, c'erano quelli che venivano dalla Jugoslavia e lavoravano alla ricostruzione del Friuli, lavoravano come edili. Poi c'era già l'immigrazione dei tunisini, che era già divisa al suo interno. C'erano quelli che erano arrivati prima e si ammazzavano di fatica. Loro facevano un mestiere a ammazzare il bagno, a scapuzzare gli ammari, che significava tagliare la testa ai gamberi per poterli poi dopo disporre per la surgelazione, eccetera, eccetera. E i ragazzi non volevano scapuzzare gli ammari, perché erano ragazzi altamente scolarizzati e volevano trovare qualcosa di migliore di quello che avevano al loro paese. C'erano conflitti intergenerazionali tra i tunisini. Insomma, è un mondo che si muoveva. Però nessuno immaginava, tantomeno Honecker, qualcuno di voi sa sotto i 40 anni chi era Honecker? Purtroppo il terrorismo ha effetto qua, non si può fare perché l'età media è piuttosto elevata, quindi in un'aula universitaria se uno dice Honecker non se l'aspettava, no. Allora, cade il muro di Berlino e naturalmente il muro di Berlino modifica il mondo e la prima cosa che succede è che in Italia arrivano gli albanesi totalmente inaspettati, e sugli albanesi sono costruite le leggende più incredibili. Allora, a questo punto, come dire, i giornalisti, come i sociologi, no, i sociologi hanno cominciato a capire che c'era l'emigrazione già quando ormai non si occupava più nessuno. Stati i demografi, c'erano due categorie di persone che io individuavo come categorie professionali benevole nei confronti degli immigrati, che sono stati i preti e i demografi, gli unici che hanno capito che l'emigrazione era una cosa tutto sommato positiva. I demografi perché c'è un problema non del calo delle nascite, ma del degrado della struttura demografica, che è tutto un altro concetto. Anche i demoproletari. Anche i demoproletari, degli anni Ottanta. Democrazia proletaria. Esatto. No. Non si ha mai. La sinistra era assolutamente divisa. Avevano letto Lenin sull'imperialismo, non avevano capito. Avevano letto Marx sulla questione irlandese, non avevano capito. Avevano letto Il Capitale, se l'avevano letto, non avevano capito, e pensavano che l'immigrazione servisse per deprimere il salario dei lavoratori locali. Faglielo capire che arrivano gli immigrati, aumentano la ricchezza del paese, cresce l'economia, e ce n'è per gli immigrati e per i locali, i quali immigrati e locali, come è successo poi dopo anche per le migrazioni interne, noi sapete c'è la migrazione interna alla Fiat, eccetera, eccetera, come nord e sud uniti nella lotta. Allora, i demoproletari e ancor più i comunisti, mi ricordo che un bravissimo professore, che non c'è più, una persona degnissima, che insegnava in una università del sud, quando io portava avanti la tesi mia che solo dei preti ci si può fidare, e in realtà lui dice ma i preti sono aperti per via di quello che Gramsci ha sempre denunciato, il cosmopolitismo vaticano, cattolico e universale vuol dire universale, e quindi chiaramente la Chiesa universale accoglie tutti perché è universale, ma che ne capiscono loro? Questo è grosso modo quello che senti dire, i vescovi si facciano i cavoli loro, no, i vescovi i vescovi se facevano i cavoli loro e erano dalla parte degli immigrati, come sono dappertutto. Cioè, la principale rivista al mondo di studi migratori si chiama IMR, International Migration Review, e la fanno, la più prestigiosa dal punto di vista accademico, non quella che è più amata, e si produce al Center for Migration Studies di Staten Island, che è degli scalabriniani. Gli scalabriniani sono un ordine missionario, si chiamano Ordine Missionario di San Paolo, di San Carlo, creato da Scalabrini, che era, mo l'hanno fatto pure santo, ma non per questi motivi, sapete, i santi si fanno perché poi la vecchina gli passa il cancro, poi non ce l'ha più, quelle cose lì, insomma, è comparsa la Madonna e l'acqua è diventata, insomma, normalmente, lui invece era davvero un sant'uomo, e fu fatto santo probabilmente anche per quelle altre cose lì, però era davvero un sant'uomo. Scalabrini aveva dei motti che bisognerebbe sempre scrivere dappertutto, alle questure, quando diceva: i popoli hanno il diritto di migrare, gli stati non hanno il diritto di fare emigrare, non hanno il diritto di costringere la gente all'emigrazione, ma i popoli hanno diritto di emigrare. E torno negli anni Ottanta. Ora, negli anni Ottanta arrivano i tunisini in Sicilia, arrivano le cameriere capoverdiane a Roma, arrivano quelle salvadoregne peruviane a... Cioè il giovedì è una grande festa, insomma, così tutti... Poi c'è la chiesa filippina, non so se c'è ancora, a San Silvestro. Uno andava a fare la raccomandata e vedeva tutto chiusa, non si fanno più le raccomandate a piazza San Silvestro, però uno può andare a vedere. Le Filippine si sono integrate, per cui non hanno più bisogno di muoversi, di uscire solo il pomeriggio, eccetera eccetera. Allora, che succede negli anni Ottanta? Beh, negli anni Ottanta succede questa prima cosa, che crolla il muro e l'internazionalizzazione. Non si svuotano i paesi dell'est, cosa che c'è su quale gli economisti fecero delle proiezioni che erano basate su, erano privi di immaginazione sociologica. Facevano le differenze salariali fino a che non fossero state vagamente superate. Cioè, non ci pensa che uno c'ha anche famiglia, c'ha la mamma ammalata, c'ha i figli che non possono star soli. Quindi in pratica dall'est non è arrivato tutto quello che era stato calcolato da qualche economista che faceva proiezione, però tanta gente è arrivata. La prima cosa, gli albanesi. Gli albanesi sono la prima cosa che sconvolge. C'è questa grande novità e gli albanesi già mettono in discussione una cosa che è durata e che ora l'Italia avrebbe difficoltà ad accettare, che era il permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'immigrazione albanese avvenne in tre fasi: una ignota, che erano effettivamente in larga parte dissidenti, qualche migliaio di persone che furono portate in giro per tutta l'Italia per far vedere che erano le vittime dell'oppressione comunista, eccetera. Poi furono accolti in Emilia Romagna, non capirono niente, perché lì c'era pure il comunismo in Emilia Romagna, il comunismo in Albania. Insomma, come dire, ma si capisce, divenne qualche dubbio su come funzionano le cose. E poi c'è le due grandi ondate, quelle di Brindisi e quelle di Bari. Beh, all'ondata di Brindisi ancora si poteva dire che scappavano da un regime oppressivo. Effettivamente c'era ancora il regime comunista è oppressivo per definizione. E poi, come dire, Enver Hoxha non era proprio il più illuminato statista, né il più grande libertario, insomma, come dire, diciamo. Quindi avevano buoni motivi per andarsene, ma il principale motivo era che era fallito il modello produttivo e quindi c'era la fame, quindi scappano. Però si poteva dire, e quindi si danno i primi per me, c'è una grande accoglienza italiana, un po', come si dice? Devo finire subito. Un po' paternalista, si adottava Andreotti, da buon democristiano con l'accento sul cristiano, praticamente diceva le famiglie italiane devono adottare un immigrato. E così successe, gli enti italiani, come di cominciare a prendersi in carico il comune di Monselice, cioè il comune di Campo San Piero, il comune di Budrio, accettarono degli immigrati, i servizi sociali del comune seguirono queste persone. Bei tempi. Poi già l'Italia se ne pentì subito e ci fu lo scempio di Bari, che se volete racconto dopo. Però a Bari però c'è il problema che questi non gli si poteva dare, man mano che arrivarono gli albanesi, non gli si poteva dare lo status di rifugiato, perché quelli venivano da un paese libero, c'erano state libere elezioni, avevano votato comunista uguale, però se l'erano scelto loro. E allora si applica un'innovazione che esisteva già da anni, che è il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Se uno non si merita il permesso di soggiorno perché non è entrato in condizioni di regolarità, le condizioni per l'ingresso regolare in Italia, tranne che per i dipendenti, tranne che per moglie e figli, per intenderci, o mariti e figli, soprattutto moglie e figli, in realtà l'ingresso è difficilissimo, In realtà in pratica si entra comunque sempre irregolarmente e poi dopo in Italia ci sono state le sanatorie. Le sanatorie sono una cosa altamente vituperata dagli italiani e ogni governo che ha fatto una sanatoria ha subito bravo, che era l'ultima. E in realtà poi ce n'è stata subito. L'unico che si era preso sul serio è stato il presidente emerito Napolitano, il quale davvero fece una legge sull'immigrazione, una legge piena di luci e piena di ombre, in cui praticamente mancava l'appendice sulla sanatoria. Ovviamente nel frattempo crescevano gli irregolari e allora praticamente la crescita numerica degli irregolari imponeva una soluzione. Siccome l'unica soluzione era o cacciarli o regolarizzarli, se uno non li vuol tenere, come hanno fatto negli Stati Uniti, che sono arrivati fino a 12 milioni di irregolari, era regolarizzarli, e questa è la sanatoria. Allora Napolitano non la fece, poi successe tutte quelle cose, diciamo, che lo storico Nanni Moretti ha raccontato a Nizza, dicendo che c'era un delinquente che si chiamava Bertinotti, che aveva fatto cadere il governo e poi dopo era seguito il governo di D'Alema, eccetera eccetera. In realtà nel governo D'Alema, che è successo al governo Prodi, in realtà è arrivata una buona democristiana, quindi col cuore cristiano, cattolico, largo, eccetera, Rosa Iusso Regolino, ho finito Maria, e è stata fatta la sanatoria. Quindi noi abbiamo avuto 7 sanatorie, tra cui anche l'ultima fatta con la legge, che non è una legge, non è la legge, la Bossi-Fini non è la legge che regola l'immigrazione in Italia. L'immigrazione in Italia è regolata al testo unico delle leggi sull'immigrazione, fondata sostanzialmente sulla Turco-Napolitano, che è stata emendata con degli emendamenti peggiorativi, che sono quelli della... Allora, poi sono passati tanti anni e siamo arrivati ad oggi. L'Italia non aveva un problema di rifugiati. Se c'era un problema di rifugiati, se non l'ammazzavano i camorristi a Castel Volturno, in realtà gli immigrati molto facilmente, pochi erano, gli veniva rifiutato il permesso, arrivava la sanatoria e il problema si risolveva. Il grosso problema cambia con la crisi, quando l'Italia perde l'immigrazione per motivi di lavoro. Ma non è vero che diminuiscono gli immigrati, diminuiscono gli immigrati per motivi di lavoro, che è un concetto diverso. Poi anche il numero totale degli ingressi si riduce di poco, però diciamo il grosso degli ingressi è fatto dai rifugiati e dai familiari. Io ho preso tutto il tempo che non mi spettava e ora ho citato alcune leggi. Finalmente siamo arrivati alla nuova legislazione. Queste leggi precedenti erano leggi pro-immigrati, pieni di contraddizioni, pieni di errori, compresi alcuni elementi persecutori. Però erano leggi che in qualche modo, nel bene e nel male, avevano l'obiettivo dell'integrazione. Da un certo punto in qua, le leggi sono state basate sul principio ben definito dalla grande sociologa Theresa May, che si chiama la creazione di un hostile environment, di un ambiente ostile. Di come sia stato creato questo ambiente ostile attraverso alcuni decreti parlerà Antonello. Grazie Enrico. Ti chiedo scusa perché Marina mi ha riportato all'ordine troppo tardi. No, io vi chiedo scusa da subito perché, come dicono quelli importanti, causa pregressi impegni istituzionali, io alle 4:15 devo scappare, quindi... mi perdonerete da subito se magari poi, non so, se ci sono delle domande, così mi fa piacere rispondere, ma rapidissimamente perché devo scappare. E grazie a Enrico innanzitutto per avermi invitato oggi, perché, come dire, questa è forse una delle pochissime sedi ormai in cui si può fare qualche ragionamento, come dire, più complesso, più articolato, come quello che ha fatto Enrico, ad esempio, prima di me, su questi temi, anche perché io ho l'impressione la maggior parte dei presenti svolge il lavoro di giornalista, quindi mi correggete se sbaglio. Io ho l'impressione che oggi nel dibattito pubblico su questi temi viga il principio che io chiamo il principio di Clint Eastwood, e cioè se un uomo con un ragionamento incontra un uomo con uno slogan, di solito l'uomo con il ragionamento è un uomo morto. E siccome io sono abituato a parlare per ragionamenti e non per slogan, penso che questa possa essere una delle pochissime sedi ormai in cui ragionare sulle nuove riforme legislative in questa materia. E dico subito quello che penso: c'è, a mio avviso, una stretta continuità e in termini di indirizzo politico e in termini di governance, come si dice adesso, dei fenomeni migratori, tra il precedente governo, rappresentato nella figura di Minniti, e l'attuale governo, rappresentato nella figura di Matteo Salvini. Per un motivo molto semplice, non lo dico io, lo ha detto il ministro degli interni Salvini, quando a maggio-giugno di quest'anno ha detto: in materia di immigrazione, se si sono fatte cose buone nella passata legislatura, noi quelle cose buone state tranquilli che non le toccheremo. E infatti non sono state toccate. Ministro Minniti fece una riforma che modificò il rito in materia di immigrazione e protezione internazionale, e questa cosa non è stata minimamente toccata dal decreto Salvini. In quel caso, con la riforma del rito, Corte di Cassazione si è espressa a luglio di quest'anno, molte della giurisprudenza di cui vi citerò, come dire, mi vedono direttamente interessato, essendo stato io l'avvocato ad aver patrocinato quelle cause. Lo dico non per fare anche qui quello figo, ma perché le abbiamo perse tutte. Però, come diceva Samuel Beckett, fallire, fallire bene, fallire sempre meglio, no? E la Corte di Cassazione in quella circostanza non sollevò le questioni costituzionali riguardanti la modifica del rito processuale. Qual era il punto in termini di diritto? Se voi parcheggiate la macchina qui davanti, non ne avete diritto, nessuno di noi ha diritto, okay? A meno che non svolgiate una funzione istituzionale e ne abbiate diritto. E quindi arrivano i vigili e vi fanno la multa. Se voi prendete una multa perché parcheggiate la macchina in seconda fila, vi fate 3 gradi di giudizio, potete produrre tutti i documenti, le testimonianze che volete per difendervi, e non siete, come dire, la multa non vi viene comminata finché non arrivate in Cassazione, e la Cassazione stabilisce con sentenza passata in giudicato che voi avete parcheggiato la macchina in seconda fila. Oggetto del giudizio 70 euro, se tutto va bene. Il decreto Minniti eliminava un grado di giudizio, eliminava l'appello, determinava una serie di preclusioni e limitazioni processuali in termini di prova, in termini di produzione documentale, nel caso in cui il richiedente asilo non si fosse, non si fosse visto riconosciuto lo status dalle competenti commissioni territoriali. E tutto questo per una causa che non ha ad oggetto 70 euro, ma che ha ad oggetto la vita delle persone. E se consideriamo che il diritto d'asilo è scritto all'articolo 10 della Costituzione, cioè uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, il rito in materia di protezione internazionale, così come modificato da Minniti, considerava la vita delle persone che sfuggivano dalle persecuzioni, in termini di garanzie processuali, in termini di giusto processo, inferiore rispetto alle garanzie che ciascuno di noi ha quando prende una multa di 70 euro perché ha messo la macchina in seconda fila. E già questo vi fa comprendere qual è il quadro all'interno del quale il precedente governo ha operato. La chiusura degli hotspot come centri di identificazione, quindi come luoghi chiusi, come luoghi di reclusione, Salvini non ha fatto altro che acuire questa situazione. I presupposti c'erano già, li aveva creati Minniti. L'accordo con la Libia, su questo io evidentemente stendo un velo pietoso, aggiungo che abbiamo fatto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nella passata legislatura per il gruppo di LeU alla Camera, anche quello ovviamente dichiarato inammissibile, in cui sostanzialmente Civati, Marcon, Brignone e Maestri chiedevano alla Corte Costituzionale di stabilire se c'era stata una lesione delle prerogative loro come parlamentari, perché quell'accordo non è mai stato votato dal Parlamento italiano. Ok? Tant'è che a un certo punto, 2 anni fa, lessi una notizia sul Corriere della Sera: il Consiglio di Stato annulla l'accordo con la Libia. La prima versione dell'accordo con la Libia venne infatti annullato dal Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato libico. Ora, considerando che la Libia è un paese in guerra civile, in cui fa piacere che c'è un Consiglio di Stato, un paese che evidentemente, diciamo, non ha una tradizione consolidata di democrazia come può essere quella italiana, faceva piacere sapere che il Consiglio di Stato riteneva invalido quel quell'accordo perché non era stato firmato da tutti i soggetti legittimati a firmarlo, e questo lo sapete bene perché in Libia non c'è un'autorità governativa sovrana, a parte quella riconosciuta dalla comunità internazionale, che però controlla soltanto, talvolta neanche quello, controlla soltanto l'albergo in cui si trova. E infine, da ultimo, la criminalizzazione delle ONG. Chi non firma la carta di intenti, che ha valore vincolante e normativo, utilizzando un tecnicismo giuridico, una balla aerospaziale, tale era la definizione che ne dava l'allora ministro Minniti, non può svolgere operazioni di salvataggio in mare delle persone. E noi oggi assistiamo a quella che, parafrasando un gruppo romano reg di alcuni anni fa, è il mondo alla rovescia, a volte ti capita, vedi? Cioè, lei dice nel cemento, benissimo, si è accolta la citazione, a volte pare che il mondo va alla rovescia, cioè noi assistiamo alla società civile che si organizza per salvare le persone in mare perché non ci sono più pattugliamenti e non c'è più un intervento istituzionale europeo ma anche italiano per salvare la vita delle persone che scappano dai lager libici, e quelle ONG vengono criminalizzate quando poi non si arriva neppure al processo, perché le procure, una procura, quella di Catania, criminalizza, e arriva nel giudice e dice: ma guardate che queste persone salvano le persone in mare in situazioni di necessità, c'è una scriminante, un esimente penale, e quindi non possono essere perseguite perché non commettono reati. Mentre la magistratura accerta che un ministro degli interni, perché questo è stato accertato dal Tribunale dei Ministri, il reato si è verificato, sequestra donne, uomini e bambini su una nave, la Diciotti, il reato c'è, il Tribunale dei Ministri dice il reato c'è, bisogna andare a processo, e il Parlamento molto probabilmente, grazie anche a una nota piattaforma telematica, precluderà la possibilità di fare questo processo, e quindi la società civile che salva persone viene criminalizzata. Fortunatamente c'è ancora uno Stato di diritto, ci sono dei magistrati che dicono il processo non si può fare perché non c'è reato, ma quando i magistrati dicono che la politica commette reati, la politica si autoassolve, molto probabilmente si autoassolverà con voti all'interno del Parlamento. E qui la parola unica che viene da dire, ma che la diciamo due volte, è solo e soltanto quella che ben conoscete: onestà, onestà. Ci ho detto qual è il quadro poi di riferimento normativo nuovo che emerge dal decreto Salvini. Innanzitutto l'abrogazione della protezione umanitaria, quella in realtà devo dire è il minore dei problemi, perché in qualche modo con la giurisprudenza cercheremo, gli operatori del diritto, di recuperare l'applicazione, le garanzie della protezione umanitaria che c'era prima, a partire dal nuovo permesso di soggiorno, più restrittivo evidentemente che il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ma ci sono due questioni che io vorrei evidenziarvi, che secondo me sono molto più gravi e che definiscono il quadro e vi fanno comprendere la caduta verticale della nostra cultura giuridica e democratica, di quanto sia arrivato sottoterra il livello della democrazia in questo paese. Articolo 3 del decreto legge Salvini, il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale a soli fini identificativi. Le persone arrivano con le navi sulle nostre coste e si fanno un periodo di limitazione della libertà personale. La norma è scritta male, dovrebbero essere 180 giorni, alcuni sostengono che siano 210, vi dirò perché non possono non essere che 180 giorni, 180 giorni di limitazione della libertà personale, i primi 30 giorni in un hotspot, resi chiusi da Minniti, i successivi 150 giorni in un CPR, al solo fine di identificare il richiedente asilo, per un fatto a lui non imputabile, perché come è noto chi scappa da guerre, persecuzione, miseria e fame non è che si porta con sé i documenti identificativi, e se anche se li porta con sé e fa un viaggio della speranza, li dà in mano agli scafisti, perché quello diventa merce di scambio durante la tratta, ok? E questo, come dire, report giornalistici, servizi giornalistici ci danno questo dato di fatto come un dato di fatto appurato, e quindi tutte le persone che arrivano qui e che attraversano il Mediterraneo partendo dalla Libia non hanno strumenti con loro stessi strumenti certificativi della loro identità. Perché è assurda questa norma, è incostituzionale ed è una norma al di fuori di ogni cultura giuridica democratica di tutti i paesi occidentali, per un motivo molto semplice: il fatto non è imputabile al soggetto, perché il soggetto non ce l'ha i documenti. Guardate quello che avviene per i cittadini italiani. La legge del 1978, che venne approvata, un decreto legge convertito in legge durante il sequestro di Aldo Moro, quindi in un momento storico eccezionale della storia repubblicana, prevedeva che quando un cittadino italiano, prevede perché è tuttora in vigore, che quando un cittadino italiano viene intercettato, incontra per strada una guardia, termine tecnico, un poliziotto, e decide di non farsi identificare dolosamente o dà documenti palesemente alterati, quindi per un fatto a lui imputabile, prima differenza, si fa 24 ore di fermo di polizia in questura, al termine delle quali esce fuori a piede libero. Nel 1978, in uno degli ultimi interventi in Parlamento, il proprietario di questo immobile, Lelio Basso, fece un intervento durissimo dicendo: questa è una norma fascista. È una norma fascista perché per 24 ore le persone sono nella piena disponibilità delle questure. Il momento era eccezionale, forse Lelio Basso, col senno di poi, come dire, calcava la mano su un elemento di limitazione alla libertà personale in quegli anni, forse più sentito di oggi. Però guardate la legge reale. Tra l'altro, ecco. Però fate la differenza. 40 anni fa Lelio Basso diceva 24 ore in questura e poi libero è una norma fascista. Oggi nessuno dice niente sul fatto che queste persone per 6 mesi si fanno una limitazione della libertà personale, tra l'altro senza aver commesso né un reato, e tra l'altro per consentire all'autorità di pubblica di sicurezza di svolgere una misura di pubblica di sicurezza che non è imputabile, perché se io decido di non farmi identificare, comunque mi assumo, come dire, un rischio, assumo una responsabilità anche di natura penale. Qui no. Qui 6 mesi vengono fatti semplicemente perché non c'hai i documenti, per un fatto a te non imputabile, per consentire all'autorità di pubblica sicurezza di svolgere questa operazione, no? Domanda: se tu sei in limitazione della libertà personale, io non ci sono mai stato in carcere se non per motivi professionali, a me risulta che i carceri, i luoghi di detenzione, di limitazione della libertà personale, inclusi i CPR, prevedono il settore maschile e il settore femminile, no? Pacifico. Domanda: se arriva un nucleo familiare composto da mamma, papà e bambino, una razza di sicurezza dice: il bambino è vostro figlio oppure no? Sì, è nostro figlio. Vabbè, dobbiamo accertarlo. Avete dei documenti? No. Limitazione della libertà personale. Sottoposizione al test del DNA per verificare se il bambino è veramente dei genitori che dicono di essere genitori. E questo è una razza, perché un superiore interesse del minore che coincide con un superiore interesse di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che per evitare il traffico di minori porta a dire: vabbè, ma allora se voi vi dichiarate i genitori dobbiamo verificare tramite DNA, questo viene fatto nella prassi al momento dello sbarco, che siate voi effettivamente i genitori. Domanda: finché non fanno il test del DNA e per tutti e 180 giorni, il bambino con chi va? Con la mamma o col papà? Perché questo la legge non lo dice, ma si verificherà quando questa norma verrà applicata ciò che abbiamo visto quest'estate al confine con il Messico, quando i nuclei familiari di persone vengono separati, e questo non è degno di un paese civile e democratico. Questo noi ce lo dobbiamo dire con forza e con estrema chiarezza, così come con estrema chiarezza ci dobbiamo dire che la revoca della cittadinanza italiana acquisita dagli stranieri, nel caso in cui gli stranieri, questo dice l'articolo 14 del decreto legge Salvini, commettono reati, alcuni reati anche di natura politica, come ad esempio la banda armata, è qualcosa che è di fuori di ogni forma di cultura giuridica democratica esistente in Europa negli ultimi 70 anni, perché contrasta con l'articolo 22 della Costituzione. A nessun cittadino italiano può essere tolta la cittadinanza, inciso, per motivi politici. Questa norma, scritta da Lelio Basso e da Dossetti in Assemblea Costituente, in particolar modo l'inciso per motivi politici, stava a dire una cosa molto semplice: è una norma che non si è mai applicata, che non è mai stata considerata, perché è una norma simbolica, culturalmente simbolica, perché stava a dire quello che è successo durante i 20 anni precedenti all'entrata in vigore della Costituzione, quello che è successo con le leggi razziali, non deve succedere più. Tant'è che nel dibattito in Assemblea Costituente si diceva: vabbè, ma tutto sommato poi ha senso introdurre questa norma in Costituzione, ma dove lo trovate un governo che in un sistema democratico toglie la cittadinanza ai propri cittadini? Abbiamo trovato, eccolo. Concludo con un ultimo elemento che sta nella seconda parte del decreto legge Salvini e che riguarda la sicurezza specificamente. Nel decreto legge sicurezza trovate altre porcherie. Minniti ha introdotto il DASPO urbano, no? Vi ricordate che il DASPO veniva utilizzato, e qui c'è da fare un po' di autocritica, no? Anche a sinistra, no? Alla fine degli anni Ottanta Mancino introduce il DASPO urbano per i tifosi, e io ricordo questo, io non sono un appassionato del calcio, men che mai vicino alla tifoseria della Lazio, notoriamente di destra, e i tifosi della Lazio alla curva mettono questo striscione enorme. Come è noto, naturalmente c'è... I tifosi della Roma sono dei rivoluzionari. Dei rivoluzionari, come no, certo. Dice DASPO ai tifosi. DASPO, due punti. Oggi agli ultra, domani a tutta la città. E così è stato. Perché col DASPO urbano si prevede l'allontanamento da determinati luoghi pubblici di soggetti che sono un pericolo per la sicurezza, per l'ordine pubblico. Il decreto Salvini che cosa fa? Acuisce il DASPO urbano introdotto da Minniti, lo estende a due altri luoghi, innanzitutto alla movida a Trastevere, dico io, applicandola ai minorenni. Il DASPO è una misura di prevenzione, di limitazione della libertà di circolazione di un soggetto in ragione del presunto indice di pericolosità sociale del soggetto medesimo. Io vorrei sapere, un ragazzino che a 16 anni si va a bere la Guinness a Trastevere, quale rischio per l'ordine pubblico possa essere. Ma di più, cosa fa il decreto Salvini? Aggiunge il DASPO per i presidi sanitari, cioè sostanzialmente per i tossici. I tossici, i vagabondi che vanno nei presidi sanitari e ovviamente danno fastidio al personale perché hanno delle esigenze, purtroppo sono degli emarginati sociali, no? Diciamolo. Cosa fa? Gli dai il DASPO, così quando, non pensate Roma, pensate ai piccoli centri, se tu gli dai il DASPO all'unico presidio sanitario presente sul territorio, quando quello c'è una crisi, non può andare lì. Perché il legislatore bilancia tra garanzie di sicurezza e accesso al servizio sanitario, a prevalere è la sicurezza. Nel decreto legge sicurezza, che prevede tutta questa serie di porcherie, nel decreto legge sicurezza si reintroduce il reato di blocco stradale, un reato che fu depenalizzato nel 1999, e lo si fa anche, tra l'altro, con modalità assolutamente molto pericolose, perché rischia di essere liberticida e di criminalizzare determinate forme di libera manifestazione del pensiero in luoghi pubblici, cortei, manifestazioni e quant'altro. Il secondo comma dell'articolo 18, che reintroduce il blocco stradale, prevede una norma ipertecnica che fa tutto un rinvio ad una serie di articoli, incluso il testo unico dell'immigrazione. Io ci ho messo un mese per capire di che cosa si parlasse e vi assicuro che stavo tutti i giorni lì a sbattere la testa su questa cosa. Noi assistiamo, e davvero chiudo, a un fenomeno sociale e politico molto interessante. Assistiamo a un nuovo ciclo di lotte. Gramsci diceva: se vuoi comprendere come funziona il sistema produttivo del nostro paese, guarda sempre due settori, quello più avanzato e quello più arretrato, perché il nostro capitalismo ha una serie di caratteristiche strutturali, un po', come dire, schizofreniche, per cui siamo sotto molti profili i più avanzati, o almeno lo eravamo in termini di lotte nei nuovi settori produttivi, ma al contempo il retaggio feudale, soprattutto in alcune zone del paese, come ci insegna Enrico, spingeva poi appunto a fare quella che poi è stata quella famosa alleanza tra operai del nord e contadini del sud, che sinteticamente, in maniera estremamente didascalica, è appunto la sintesi della contraddizione del nostro sistema produttivo che Gramsci evidenziava nei suoi guadagni dal carcere, ma già negli articoli nell'Ordine Nuovo. Noi assistiamo a dei nuovi cicli di lotte, settori produttivi più avanzati, la logistica, Amazon, settori più arretrati, domani Magistratura Democratica incomincia il suo congresso nell'Agropontino, nell'agricoltura, in quella zona lì, San Ferdinando, in Calabria, il settore agricolo che, come dire, ormai nel nostro immaginario il settore è più arretrato da un punto di vista produttivo, ovviamente così non è, la questione è molto più complessa. Questi sono i due settori produttivi in cui nell'ultimo anno e mezzo incominciamo a verificarsi il ripartire di una serie di lotte sociali. Qual è la composizione sociale di queste lotte? Stranieri, poco istruiti, che non parlano italiano, che fanno dei lavori da fame in condizioni al limite del disumano. Non sono sindacalizzati, non c'è un'organizzazione. Che cosa succede quando non accetti più le condizioni di lavoro? blocco spontaneo della produzione, qual è la prima forma di manifestazione spontanea di sciopero che non è guidata, diciamo, da un sindacato, quanto piuttosto da un'organizzazione sindacale o da un'organizzazione che mette insieme i lavoratori e gli dà un metodo nelle battaglie? Blocco stradale. L'articolo 18, secondo comma del decreto legge Salvini, che cosa dice? Dice che se tu fai il blocco stradale e sei uno straniero e c'è il permesso di soggiorno e arriva la notizia di reato al pubblico ministero, il pubblico ministero fa partire la procedura penale e si arrivi anche semplicemente al patteggiamento, perché non vuoi fare il processo e quindi ti vuoi evitare la condanna penale, vi è in automatico la revoca del permesso di soggiorno. In questo modo, criminalizzando nuove forme di protesta sociale e politica che stanno incominciando a consolidarsi in questi settori produttivi da un lato, ma dall'altro con un'intelligenza sopraffina, questi non sono dei cretini, questi sono dei delinquenti, perché sanno esattamente cosa vanno a toccare e quali sono le questioni all'ordine del giorno. A quello che lavora in una zona grigia, in una zona nera, in questi luoghi qui, reato o non reato, non gli cambia nulla. Anche la reintroduzione del blocco stradale, che dovrebbe farci preoccupare a noi italiani, allo straniero chiaramente non gli cambia nulla, perché irregolare sei, quindi sei un criminale, no? Articolo 10 bis, testo unico immigrazione, reato di clandestinità, reato in più, reato in meno, non mi cambia niente, sempre sfruttato con un contratto in nero, sto. Chi è che organizza però lo sciopero spontaneo? Quel settore sociale di lavoratori extracomunitari che, avendo un minimo di garanzia, cioè avendo un permesso di soggiorno al lavoro un po' più lungo, con un minimo di garanzia in più, con uno straccio di contratto di lavoro in più rispetto a quello che è identico a lui ma è più povero e più sfruttato, è quello che prende coraggio e incomincia a organizzare e inizia a fare lo sciopero e il blocco stradale. La norma va a toccare proprio loro, cioè a quelli che alzano la testa, a quelli che incominciano ad organizzarsi, e lo va dicendo a quello lì qual è l'arma, ancora una volta, reato in più, reato in meno, non mi cambia nulla, ma lui il permesso di soggiorno ce l'ha, lui più o meno è in regola, se io gli dico se tu non stai buono, se tu alzi la testa, io ti tolgo il permesso di soggiorno, il gioco è fatto. E allora capite bene, non soltanto come noi abbiamo dei professionisti al governo in questo senso, e quindi dei delinquenti, come diceva la signora in sala, ma che noi ci dobbiamo confrontarci con dei professionisti della politica che, al di là, come dire, della cialtronaggine dei 5 Stelle, questi qui sanno benissimo che cosa fanno, lo stanno facendo, e spetta a noi, tocca a noi organizzarci e provare quantomeno a far dichiarare incostituzionali queste norme non appena se ne darà un'occasione. Io devo scappare davvero, mi scuso, se ci sono delle domande rispondo subito. Allora, io mi limito semplicemente a dirti, è stato un po' anche implicitamente evocato, ma sicuramente se ne parlerà, c'è questo bellissimo libro del nostro comune amico e collega che è Michele Colucci, Storia dell'immigrazione in Italia. Io penso che il lavoro di Michele, che è veramente un bel lavoro, un lavoro importante, e che tra l'altro, come dire, incomincia a fare un ragionamento in termini di lunga durata storiografico, passando quindi dal campo della sociologia al campo della storiografia, questo salto in termini generali, astratti e scientifici è la risposta alla tua domanda. Se incominciano a scriversi delle storie dell'immigrazione in Italia, una storia presuppone quantomeno un fenomeno sociale di medio periodo. Se c'è un fenomeno sociale di medio periodo, c'è un fenomeno strutturale. Se c'è un fenomeno strutturale, non può esserci emergenza. L'emergenza, noi sappiamo, nella logica neoliberale che ci governa, è quella che serve a creare il caos e anche a risolverlo in maniera repressiva e autoritaria. Quindi da questo punto di vista, se tu leggi i presupposti normativi del decreto legge, c'è un crollo radicale degli sbarchi dovuto al fatto che Minniti ha chiuso con la Libia, questa gente adesso muore nelle carceri libiche, muore nei lager libici e quindi non arrivano più qui. Quelli che arrivano sono quelli che scappano e molto probabilmente, come è successo ultimamente, li rispediamo pure indietro commettendo un crimine internazionale. Quindi quale emergenza può esserci? Anche qui l'uso del decreto legge è solo un modo per ricattare politicamente una parte della maggioranza governativa che magari poteva non starci fino in fondo. Posso aggiungere una cosa? Cioè il decreto Minniti, rispetto al quale io concordo perfettamente con quanto ha detto Cervo prima, si poteva giustificare in linea teorica e astratta come risposta a un'emergenza. Arrivava un mucchio di gente ogni giorno, l'Italia aveva accettato tutte le normative di Dublino, comprese quelle un poco più folli, e nessun governo precedente, dopo che il governo Berlusconi-Maroni aveva allegramente accettato il pacchetto di Dublino, si era preoccupato di opporvisi. Allora, gli sbarchi erano notevoli e la gente sembrava destinata a restare comunque in Italia, anche perché per via del sovranismo crescente. Allora, un decreto con le caratteristiche che lui ha detto, fondato sostanzialmente sulla disumanità, a mio avviso, che è quello: non ci possiamo fare niente, mors tua vita mea, comunque mors tua ad ogni buon conto, vai a crepare nelle carceri libiche, si poteva in linea astratta giustificare. Il decreto Salvini è avvenuto in condizioni che, come ogni giurista, tutti i giornali, tutti gli articoli dei giornali, diciamo, dove, firmati da giuristi, l'hanno sottolineato, queste condizioni non c'erano più. Quindi una emergenza emigrazione, immigrazione non sussisteva. Non sussisteva neanche prima, perché poi l'Italia è stata capace di fare cose grandiose da questo punto di vista. Anzi, visto che sto parlando, io farei concludere a Grazia. Volevo, diciamo, abbiamo fatto un salto nelle legislazioni. Io volevo fare un breve resoconto di come siamo arrivati dove siamo arrivati. Per fortuna, possiamo dire che le cose non sono andate sempre peggio nel nostro Paese. Bisogna partire dalla legge Foschi, che stabilisce quei principi di parità, e che comunque apre all'accoglienza. Decreti successivi, fino alla legge Turco-Napolitano, che contiene delle ingenuità, delle inutili crudeltà nei decreti attuativi, perché ancora non si sapeva cosa fare degli irregolari, si inventano i CPT, i centri di permanenza temporanei, per gente che era ovvio che sarebbe uscita dopo 30 giorni da quelle galere orribili, dove eri privato, e dopo 30 giorni la normativa, se non c'era un accordo col paese di provenienza. E nel frattempo si è creata già all'epoca una brutta favola, che è quella che questi CPT o le deportazioni che dovevano seguire la residenza nei CPT erano fatti per delinquenti, cosa che è assolutamente non vera. I CPT nella Turco-Napolitana sono stati pensati per i padri di famiglia, per gli onesti lavoratori. Chi doveva andare in quelle galere orribili di detenzione amministrativa erano le persone che, senza aver compiuto alcun reato, si trovavano in condizioni di irregolarità, perché invece che aveva compiuto un regalo veniva arrestato e andava in galera, punto. Tutt'al più potevano passare per i CPT nella fase di trasferimento al proprio paese in caso di accordo relativo all'espulsione con un paese che aveva l'accordo di espulsione. Quindi, diciamo, c'è stata una responsabilità istituzionale nel creare menzogne, che ha un'antica tradizione nel nostro paese. Non era questa la Turco-Napolitana. La Turco-Napolitana ha delle cose bellissime. La povera Livia Turco era convinta che era la legge più bella del mondo, insomma. Non aveva contato che pochi giorni dopo che hanno applicato la legge, la gente è morta bruciata viva nel Serreno Vulpitta, il CPT di siciliano, insomma. Comunque non era la più bella, era una delle più belle leggi del mondo. Perché era una delle più belle leggi del mondo? Perché aveva l'articolo 18, che permetteva il riscatto, il recupero sociale di persone vittime di tratta fuori da ogni legislazione premiale. Voleva dire che la ragazza ridotta in schiavitù non doveva necessariamente partecipare alle indagini che favorissero l'arresto del criminale che l'aveva sequestrata, eccetera eccetera, doveva semplicemente essere disponibile a un percorso di recupero, cosa di grande civiltà giuridica. Un'altra cosa, l'estensione legge, norma internazionale, l'estensione del diritto alle cure mediche, sulla base del principio universale della difesa della salute. Quindi altre cose, i ricongiungimenti familiari hanno una normativa non molto avanzata, non è che ognuno si può portare la cognata come avviene negli Stati Uniti, però comunque i ricongiungimenti familiari sono stati fatti, hanno prodotto le seconde generazioni, quindi è una legge molto contraddittoria. Non conteneva una sanatoria, però poi, come dicevo, ci ha pensato Rosa Iussu Revolino pochi giorni dopo. Quindi noi abbiamo avuto una fase alta, ma nella quale pure c'erano contraddizioni violente. Un grande esponente politico, mi pare democristiano, non sono riuscito a trovare la fonte esatta dell'informazione, per cui, come dire, non faccio il nome fino a che non riesco a trovare la... Io l'ho sentito alla televisione, però voglio dire, diciamo, l'ho sentito alla televisione che lo diceva, ecco, quindi non... la memoria, soprattutto nei vecchietti, disse: bisogna sparare ai gommoni. Ora, questo personaggio forse non è molto intelligente, però, e quindi tante volte, come nei bambini, ci uccidiamo, ma tu lo sai, se tu uccidi la sorellina del quale sei geloso, poi la sorellina muore e poi non ce l'hai più, quindi non è una punizione estemporanea. Se tu spari ai gommoni per affondarli, l'immigrato muore. E far morire l'immigrato è peccato, soprattutto per un democristiano, insomma, dovrebbe esserci un minimo di... La Marina italiana, poco dopo l'applicazione di Cati Radish, anziché fare quello che poi è stato fatto con Mare Nostrum, cioè search and rescue, cioè ricerca e recupero di gente in pericolo, salvataggio di gente in pericolo, speronò la Cati Radish e fece fuori 270 persone. Aveva dovuto provvedere a come evitare l'urto, come attrezzarsi a salvarli, invece sono andati giù. Abbiamo avuto momenti buoni e momenti cattivi. Nel 2008 abbiamo avuto pure dei momenti orribili, per esempio, e lì la società civile italiana si è difesa, mica la destra o la sinistra. Io non sono d'accordo con Antonello che i demoproletari volevano bene agli immigrati, non più e non meno dei democristiani ad occhio e croce. Ma noi abbiamo avuto il momento della società civile contro i decreti Maroni, il famoso preside spia. Qui c'è un'antica tradizione delle istituzioni pubbliche, perché poi le istituzioni, come dire, sono fatte pure da persone, non è che in America, per esempio, Cuomo, il governatore Cuomo, Mario Cuomo, dette disposizioni a tutti gli uffici pubblici dello Stato di New York di non dare nessuna informazione a qualunque altra istituzione sullo status di migrante della persona della quale si chiedevano informazioni. Punto. I presidi si sono vietati, c'è il diritto universale all'istruzione. Quindi noi non diamo nessuna informazione sui genitori dei bambini, se regolari o irregolari. Punto. Perché è contro la nostra etica di insegnanti. I medici di destra e di sinistra si rivoltarono per motivi buoni e per motivi buoni ma diversi. Per esempio, il Ministero della Sanità si stacca dal Ministero degli Interni a un certo punto, ed era giusto che stesse il Ministero degli Interni, perché mica si doveva preoccupare degli ammalati il Ministero della Sanità, si doveva preoccupare del fatto che gli ammalati non contagiassero il resto della popolazione. Quindi era la salute pubblica che andava tutelata, non il diritto costituzionale del cittadino, come poi nella Costituzione, e l'Italia andò ben più in avanti della Costituzione, perché nella Costituzione c'è scritto che il cittadino ha diritto, se povero, alle cure mediche gratuite. Col piano sanitario nazionale il cittadino ha diritto, anche se non povero, alle cure. Quindi abbiamo avuto questa avanzata, i medici che si sono rifiutati di fare le spie, però contemporaneamente i ministri che incitavano allo spionaggio, incitavano alla violazione della deontologia. Io medico devo salvare la vita, non mi devo occupare di dare informazioni a nessuno, sul mio paziente. Quindi, come abbiamo avuto in Italia, abbiamo avuto, e concludo così do spazio a lei, abbiamo avuto un crescendo di legislazione positiva fino a un certo punto, ogni tanto con dei colpi di coda, fino a che non sono arrivati. Certo, non è che tutto funzionasse bene, perché come è tipico in materia migratoria in tutto il paese, ci sono quelli che gli inglesi chiamano, c'è una che ci ha scritto un libro poi partendo dall'Italia, si chiama Lydia Morris, implementation deficits, cioè difetti nella carenze applicative, carenze applicative della legislazione. Quando fu fatta la Bossi-Fini voleva essere un attacco alla legislazione precedente. Praticamente la Bossi-Fini non toccò la materia assistenziale, perché la materia assistenziale è costosa. Come faccio io a ucciderla? Basta che non alla fine non finanzo quei titoli di spesa ed è risolto il problema. Ecco. Quindi noi abbiamo avuto un crescendo buono fino a che all'improvviso, dopo un momento in cui l'Italia è stata dileggiata all'estero per buonismo, con l'operazione Mare Nostrum, che è stato uno dei più alti momenti di solidarietà umana e internazionale spesso a livello governativo dal nostro paese, per cui di nuovo la gente si salvava. Mare Nostrum era il mare non da difendere, che è il compito di Frontex, ammesso che Frontex serva a qualcosa oltre che a dilapidare miliardi, non era border control, perché poi non usi termini, usi termini inglesi perché sono quelli che definiscono a livello internazionale, perché questo è così internazionale, le funzioni. Border control, controllo della frontiera, cioè impedire chi entra e chi non deve andare, questo è il compito di Frontex, per la quale si spendono una quantità di miliardi infinita. È una società privata, è una ditta Frontex, è una ditta che è finanziata da accordi, non è che c'è a Bruxelles all'interno, che ne so, di una divisione, che ne so, divisione politica e migratoria, l'ufficio dove c'è Frontex, no, c'è una convenzione tra gli stati per cui effettivamente viene. Abbiamo avuto questo, abbiamo avuto Mare Nostrum, si salva la gente perché è umano salvare la gente. Dopodiché è stato deciso dal ministro Alfano che era troppo costosa ed è stata cancellata. Poi è arrivato come fulmine a ciel sereno questa coppia di decreti, di cui il primo, che metteva insieme cose che non c'entravano, insomma, decoro delle città e, come dire, cessione di responsabilità di gestione dell'ordine pubblico e del decoro soprattutto da parte degli enti locali, e sappiamo quello cosa può significare, e poi fino al decreto Minniti, del quale ha parlato Antonello Cervo prima, che effettivamente rappresenta un problema grosso, perché crea soprattutto marginalità. Quindi su questo non, però di queste cose è più competente di me e Grazia. Quindi noi abbiamo avuto una legislazione che è salita e salita e salita, e poi frum, è piombata giù con due decreti, che sono questi due, dei quali così si riducono i diritti, si crea appunto un ambiente ostile, e poi peggiorano pure, come ha mostrato Andrea, questo è un problema di tutti gli stati, le legislazioni caratterizzate dalla creazione dell'ambiente ostile finiscono poi per ripercuotersi anche sui cittadini. Se si fa il DASP contro gli immigrati, poi dopo te lo vedi fatto pure contro i ragazzi. Prego. Sì, allora grazie, non so. Sentite lo stesso, sì. Ma poi che registrano, quindi se parlo. Ah. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie da parte mia, dico, per l'invito. Allora, tenendo conto degli interventi di Enrico e di Antonello, coglierei l'occasione per fare un riepilogo e da qui fare alcune considerazioni sull'oggi. Perché, come giustamente è stato sottolineato, noi abbiamo avuto una evoluzione della normativa. Diciamo, la fase più significativa sicuramente discende a partire dall'approvazione della legge del testo unico 286-98. Abbiamo avuto la fase della legge Bossi-Fini 2001. Ci sono stati poi gli anni 2008 e 2009, il cosiddetto primo pacchetto sicurezza. Poi abbiamo avuto i due decreti Minniti Orlando e quindi all'oggi la legge 132/2018. Ripercorro questi provvedimenti perché io penso che in realtà noi possiamo far risalire l'inizio di una regressione della garanzia dei diritti dei cittadini stranieri nel nostro paese in realtà a partire dalla legge Bossi-Fini in poi. La curva a cui accennava Enrico, a mio modo di vedere, inizia da lì e poi purtroppo ha subito delle accelerazioni. Vi sono delle similitudini molto forti tra i due pacchetti sicurezza 2008 e 2009 e il pacchetto sicurezza approvato nella scorsa legislatura e ideato dal ministro dell'Interno, ex ministro dell'Interno Minniti Orlando, e ministro della Giustizia Orlando. Ci sono alcune norme dell'ultimo pacchetto sicurezza che sembrano letteralmente riprendere alcuni passaggi del pacchetto sicurezza 2008 e 2009. Perché ribadisco questo? Perché effettivamente la torsione sicuritaria che noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni è una torsione sicuritaria della legislazione sull'immigrazione molto forte che se non va direttamente ad incidere nella parte che riguarda la garanzia dei diritti sociali, la seconda parte sostanzialmente del testo unico 286-98, non ne ha, potremmo dire, neanche letteralmente bisogno, perché cerca con questa torsione sicuritaria da un lato di promuovere una grande operazione dal punto di vista simbolico e culturale. Cioè l'idea fondamentale è quella della restrizione dei diritti, della negazione dei diritti dei cittadini stranieri nel nostro paese e della riaffermazione di quella che potremmo definire come la distinzione madre tra i diritti dei nazionali e i diritti dei non nazionali. Questa chiave mi sembra importante ribadirla perché altrimenti il rischio è che, soprattutto nel dibattito pubblico un po' inquinato, devo dire, non solo negli ultime settimane, ma già da qualche mese, si tenda a enfatizzare l'importanza dei provvedimenti adottati sotto il recente governo e invece rimuovendo l'importanza di scelte che sono state fatte in precedenza e che non sono affatto secondarie. Mi sembra giusto sottolinearlo anche guardando in prospettiva, perché laddove noi non riusciamo a fare una riflessione che esce diciamo così, dalla situazione contingente e riesce a guardare sul lungo periodo quello che è avvenuto nel nostro paese, sia sul piano politico, sia sul piano normativo in merito a questo, al governo di questo fenomeno, se si rinuncia a fare questo, probabilmente si rinuncia anche a individuare quelle che potrebbero essere delle strategie da privilegiare per immaginare un cambiamento positivo, soprattutto per le persone interessate, che appunto sono le persone straniere presenti nel nostro paese. Detto questo, tornando a quanto veniva anticipato rispetto alla legge 132/2018, Antonello ha individuato sicuramente i passaggi fondamentali che sono stati compiuti dall'approvazione di questo decreto. È giusto però sottolineare che questo decreto è stato ampiamente anticipato dall'adozione di alcuni provvedimenti di carattere amministrativo che hanno addirittura, diciamo, per alcuni aspetti anticipato i contenuti del DL 113/2018. Li cito molto rapidamente, tenendo conto che stiamo parlando di provvedimenti adottati da un governo che è entrato in carica effettivamente il 1 giugno del 2018. Allora, noi abbiamo avuto appena un mese dopo una prima circolare amministrativa del Ministro dell'Interno che ha dato indicazione ai prefetti di ridurre i casi di riconoscimento di protezione umanitaria. Atto amministrativo, badate bene. Poi abbiamo avuto una nota della Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 16 luglio che ha invitato, fatto del tutto inconsueto, i presidenti delle commissioni territoriali che sono appunto gli organismi che esaminano le domande di protezione internazionali a applicare la circolare di qui sopra e quindi tra l'altro invitandoli a accelerare i tempi di esame delle domande di protezione. Poi abbiamo avuto un altro atto amministrativo, una direttiva del Ministro degli Interni che in qualche modo ha anticipato nella gran parte dei contenuti il piano di riorganizzazione del sistema di accoglienza nazionale per richiedenti asilo e rifugiati. Di fatto, di questo finora non si è parlato molto, ma invece è un aspetto che è destinato ad avere delle ripercussioni fortissime, non solo rispetto alle persone direttamente interessate, ma complessivamente anche sulle comunità locali che sono le realtà in cui gran parte delle esperienze d'accoglienza promosse fino ad oggi dai comuni sono state realizzate, ed è l'aspetto che riguarda il sistema di accoglienza, cioè La legge 132 è la legge che ha convertito in legge il DL 113/2018, di fatto opera una riorganizzazione profonda del sistema di accoglienza per come noi l'abbiamo conosciuto sostanzialmente direi dal 2014 in poi. Perché dal 2014? Perché è più o meno in quell'anno quando già i flussi di arrivo delle persone che richiedevano, che facevano domanda di protezione internazionale era iniziato a aumentare. Di fronte a quei numeri ci si pose il problema di rafforzare il sistema di accoglienza di fatto affiancando al sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, lo SPRAR, il sistema pubblico gestito dai comuni in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore, un sistema parallelo definito emergenziale per l'appunto, che era caratterizzato da sostanzialmente da un procedure di costruzione dei centri di accoglienza, delle strutture di accoglienza decisamente diverse, procedure in gran parte accelerate e in gran parte di, proprio della, diciamo così, della gestione identificata come malaffare o malaccoglienza riguardato proprio la gestione di queste strutture, sono diciamo quelle strutture note come centri di accoglienza straordinaria o CAS. E quindi è dal 2014 effettivamente che questo sistema parallelo si è particolarmente strutturato nel nostro paese. Ora, la legge 132, bisogna dire questo, che laddove in teoria vi era stato, diciamo, un piano, quantomeno l'annuncio di una strategia che andava a individuare nello SPRAR, cioè nel sistema pubblico di accoglienza gestito dai comuni, il sistema ordinario di accoglienza, in realtà nei fatti, proprio negli anni in cui noi abbiamo avuto i numeri più grandi dal punto di vista dell'arrivo di persone che chiedevano protezione, è successo che in realtà la gran parte delle persone è stata accolta nelle cosiddette, appunto, strutture di centri di accoglienza straordinaria. Cioè, quello che è successo è che in media fra il 70 e l'80% delle persone giunte nel nostro paese di fatto sono state accolte in un sistema di accoglienza straordinario che presentava già, soprattutto agli inizi, delle caratteristiche molto diverse da quello dello SPRAR dal punto di vista della qualità dei servizi erogati. A pari costo la tipologia di servizi individuata era completamente diversa. Sostanzialmente quella nel sistema di accoglienza straordinaria era un'accoglienza prevalentemente ridotta alla dimensione materiale, vitto e alloggio, laddove invece, come insomma credo che tutti voi già sappiate, l'accoglienza prevista nel modello SPRAR è un'accoglienza finalizzata, almeno laddove il sistema è rimasto fedele a se stesso, perché poi anche all'interno dello SPRAR ci sono state sicuramente delle storture, soprattutto a Roma e nelle grandi città, era un modello, un sistema di accoglienza che aveva come finalità l'autonomia della persona grazie alla previsione di servizi e percorsi che erano finalizzati all'inclusione sociale della persona nella comunità di accoglienza. Questo molto in sintesi, non posso soffermarmi troppo su questo, ma quello che succede con la legge 132 2018 è che questo sistema viene completamente... Quello che noi chiamiamo decreto Salvini. Sì, sì, siccome io laddove posso evito di nominare il ministro degli interni, perché secondo me non se ne può più, scusate lo sfogo, nel senso che non si può parlare in questo paese solo di Salvini, perché Salvini è, la punta dell'iceberg di un processo politico, culturale e sociale che evidentemente ha fatto in modo tale che Salvini avesse quel consenso che ha oggi. Quindi, personalmente, come associazione, cerchiamo di parlare dei provvedimenti più che della persona e di non nominarla neppure, perché abbiamo un dibattito pubblico che troppo si sta concentrando sul personaggio Salvini. Ma non è una polemica, è soltanto per spiegare perché non uso il cognome Salvini. Allora, dicevamo, la legge 132 32/2018 interviene a mettere in discussione profondamente il sistema, questo sistema d'accoglienza, di fatto prevedendo innanzitutto che i richiedenti asilo non possano più essere ospitati nelle strutture SPRAR. I richiedenti asilo da ora in poi potranno essere ospitati solo nel sistema di accoglienza governativo, costituito sostanzialmente dai CAS e dai CARA, con la premessa che faceva Antonello per quanto riguarda il periodo che serve per identificare la persona, che tra l'altro appunto può prevedere la detenzione della persona in strutture ancora neanche tanto ben definite all'interno della legge, che potrebbero essere persone delle caserme. Il decreto interviene anche a modificare la tipologia dei servizi offerti all'interno del sistema d'accoglienza, lo dicevo prima. Da ora in poi nel sistema di accoglienza governativo non è prevista l'erogazione di tutti quei servizi che sono finalizzati all'inclusione sociale della persona, cosa che era prevista agli inizi quando il sistema era nato, ma anche a seguito di tutte le vicissitudini che hanno conosciuto nel corso del tempo alcune esperienze di accoglienza in questo sistema, di fatto i bandi avevano avvicinato molto la qualità e la tipologia dei servizi offerti dai CAS e dallo SPRAR. Con questo decreto si torna assolutamente indietro, si tagliano i servizi volti all'inclusione sociale, l'insegnamento della lingua, tutto ciò che ha a che vedere con la promozione di un percorso di inclusione sociale della persona. Non solo, si prevede e si è già intervenuti successivamente con l'elaborazione di un nuovo schema di capitolato d'appalto dei servizi di accoglienza, si prevede di abbassare in modo significativo il costo pro dieco, pro capite, per l'erogazione di questi servizi. I nuovi bandi sono bandi che hanno evidentemente l'obiettivo non solo di abbassare i costi, ma anche di fatto di privilegiare l'accoglienza in grandi strutture. Questo nel decreto non è scritto, anzi, sia nella direttiva del Ministero dell'Interno di luglio che nel decreto, come dire, diciamo, si ammicca al fatto che l'obiettivo, almeno annunciato e dichiarato, è quello di favorire un collegamento dei servizi sul territorio, per cui la struttura d'accoglienza di fatto deve appoggiarsi all'intero sistema dei servizi sociali presenti sul territorio per ottimizzare le risorse e qualificare al meglio i servizi, ma di fatto lo schema di capitolato, per come è impostato, rende impossibile la prosecuzione e l'ampliamento delle forme di accoglienza diffusa, cioè le piccole strutture, perché è chiaro che laddove io vado a fissare dei costi massimi delle gare che sono molto bassi, l'unica possibilità che ho ovviamente è, essendo un ente economicamente solido, partecipare a gare che prevedono di fare economia di scala grazie al numero di posti previsti. Quindi stiamo parlando di centri con centinaia di posti disponibili. E questa è, lo capite bene, una messa in discussione innanzitutto del modello SPRAR, che è un modello che ha una lunga storia e partiva dal presupposto che l'accoglienza deve essere diffusa sul territorio, fatta in piccoli numeri, consentire un rapporto tra operatori e beneficiari dell'accoglienza tale che si possa effettivamente garantire un l'instaurarsi in un rapporto di fiducia con le persone e si possano anche seguire nei loro percorsi di inclusione sociale. E questo modello di fatto viene messo completamente in discussione. Che cosa è effettivamente successo oggi? Io per puro caso, diciamo, ho controllato oggi i dati del Ministero dell'Interno per la prima volta, direi da fine, almeno fine 2017, quando ancora c'era Minniti. Per la prima volta noi ritroviamo nel cruscotto statistico pubblicato dal Ministero dell'Interno i dati relativi all'accoglienza, perché in tutti gli ultimi cruscotti statistici venivano inseriti solo i dati relativi agli sbarchi. Capite anche facilmente il motivo, nel senso che sia il Ministro dell'Interno Minniti che l'attuale erano molto concentrati su, come dire, la diffusione dei dati che erano finalizzati a dimostrare che il blocco delle frontiere stava funzionando. E per quanto riguarda l'accoglienza, nel cruscotto datato oggi si dice che ad oggi nel sistema d'accoglienza sono presenti ancora 126.287 persone. Dovete pensare che a fine 2017 erano circa 186.000. Quindi già oggi noi abbiamo inevitabilmente, diciamo, una diminuzione delle persone ospitate nel centro accoglienza, ovviamente perché? Perché uno degli obiettivi prioritari del governo e anche del DL 113 è esattamente quello di provocare di fatto una diminuzione forzosa della domanda di accoglienza. Laddove io intervengo a chiudere i porti, peraltro senza l'adozione di alcun atto formale, e quindi impedire gli arrivi, indirettamente, evidentemente, intervengo ad abbassare la domanda d'accoglienza. C'è un secondo aspetto, e questo chiaramente ha delle ripercussioni sulle comunità locali, laddove le persone che non hanno più titolarità di accedere al sistema di accoglienza nazionale vengono di fatto lasciate a se stesse. Chi non ha il riconoscimento di protezione è destinato a rimanere senza titolo di soggiorno, perché il messaggio propagandistico sulla diciamo, intenzione di aumentare il numero di rimpatri rimarrà tale. I rimpatri, ci sono studi, diciamo, anche da parte nostra molto approfonditi, che dimostrano che rimpatriare migliaia di persone non è possibile, anche soltanto per un motivo banalmente di disponibilità di risorse. È finito il tempo? Perché vedo che tutti si alzano, quindi mi sembra di capire. Ok, ho abusato della parte introduttiva. No, niente. Allora mi limito semplicemente a dare due titoli che avrei voluto affrontare, ma non affronterò. Il primo riguarda l'operazione culturale che è stata fatta con l'adozione degli ultimi provvedimenti, compresi quelli della legislatura precedente, dal punto di vista della delegittimazione vera e propria di tutte le organizzazioni della società civile che svolgono diciamo, interventi di solidarietà. Questo non riguarda evidentemente solo le ONG che prestano soccorso in mare, ma anche appunto molti soggetti che operano sul piano dell'accoglienza, ed è un'operazione culturale secondo me molto rilevante, perché ha molto a che vedere anche con quello che è avvenuto negli ultimi mesi in termini di come dire, intensiva presentazione di casi di discriminazione, violenza verbale e violenza fisica delle persone. Da qui non ne deriva il fatto che si possa affermare che questo è in aumento, però di fatto noi abbiamo avuto nell'ultimo anno molti casi di violenza grave da un lato, e dall'altra parte il ritorno di una nuova campagna di razzismo istituzionale portata avanti attraverso le delibere comunali. Anche questa non è una novità, perché nel biennio 2008 e 2009 avevamo già un'operazione di questo genere. Non c'è il tempo di approfondire, ma io credo ci siano tutti gli elementi per poter considerare il fatto che l'adozione di queste misure necessita, laddove possibile, dell'avvio di ricorsi anche a livello legale che siano finalizzati quantomeno a chiedere il riconoscimento dell'incostituzionalità di alcune norme. Grazie. Visto che su un testo puoi eventualmente renderlo pubblico quando... Sì, lo dovrei rimettere a posto. Vabbè, quando l'avrei messo, perché lo facciamo girare. Io vi ringrazio, voglio solo fare una piccola considerazione di un istante. 10 anni fa questa conversazione non sarebbe esistita. Avevamo un'emigrazione completamente diversa e una politica migratoria completamente diversa. E questo, tra l'altro, ci ha anche limitato. Io ho molto apprezzato il discorso che hanno fatto i due relatori, eppure è rimasta fuori una larga parte, perché in questo momento l'immigrato è il rifugiato, il ritenuto tale, il ritenuto rifugiato abusivo, eccetera, non è più gli immigrati. Pare che tutto avvenga tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo, e che tutto avvenga con soggetti dei quali ci dobbiamo occupare, che dei quali è giusto occuparsi, perché ce ne si può occupare o in un modo o in un altro. E quello che si sta seguendo ora è il peggiore. Ci sono tutti gli altri, quel bruscolino di 5 milioni di stranieri che l'Italia, tutto sommato, con contraddizioni infinite, è riuscito comunque a incorporare nella società italiana, e che non ha goduto della diffamazione di cui sta godendo in questo periodo, su dei quali bisogna ancora ulteriormente continuare ad occuparsi. Quindi vi ringrazio per la pazienza, perché in genere naturalmente poi si comincia, poi c'è un break, un bicchiere d'acqua, eccetera. Questa volta siete stati, insomma, come dire, prima oppressi da me, poi dopo avete sentito i due colleghi, ma grazie per la presenza. Io tra l'altro tornerò con altri ospiti in un'altra lezione, che sarà su Crocevia Italiano, cioè l'altro versante, non più quelli che arrivano, quelli che se ne vanno, che poi è il titolo del mio libro Al Mulino. Io ringrazio Marina, perché i ringraziamenti per l'invito vanno a lei, non a me. Lei è la coordinatrice del corso. Io sono... Grazie. Grazie.